Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Lorenzo Fantini di Wanted Cinema, che distribuisce il film Anton Chekhov di René Ferré al cinema da giovedì 26 gennaio 2023. Ben trovato. Buonasera a tutti, anzi buongiorno direi. Raccontiamo questo lavoro. Il film Anton Chekhov è un film che tutti gli amanti del teatro e della letteratura in primis stavano aspettando da sempre, perché Chekhov è lo scrittore e drammaturgo che ha rivoluzionato sostanzialmente il teatro moderno nasce con lui e anche la letteratura è un po' il padre del minimalismo in un certo senso. È un film francese dove spiccano due attori coprotagonisti particolarmente interessanti, due figli d'arte come la figlia di Isabelle Huppert e il figlio di Jodorowsky, Francis Jodorowsky, ed è un film che racconta la vita di questo grandissimo scrittore combattuto tra l'arte della scrittura e però anche la sua professione di medico. È celebre la sua frase: io sono sposato con la medicina e la letteratura è la mia amante, quando mi stanco di una vado dall'altra. Un uomo comunque profondamente etico e umanista, che quindi considerava la letteratura un po' una medicina per l'anima, no? In qualche modo. E che anche una volta raggiunto il grande successo al teatro di Mosca con Stanislavski, ha sempre continuato a voler curare i contadini poveri, così come ha voluto anche essere autore di un celebre reportage giornalistico, diciamo così, che in Italia è pubblicato anche da Adelphi, in cui all'apice del successo ha mollato tutto per andare a fare una colonia penale in Siberia. C'è un uomo profondamente attento alla condizione umana, nonostante vivesse un po' alla fine anche nel glamour del teatro della capitale Mosca con i più grandi divi dell'epoca. Il film racconta un pochino questo, quest'uomo combattuto, un film anche di viaggio, è un film di poesia, di arte e di amore naturalmente, perché poi chiaramente pur morto in giovane età ha avuto una vita sentimentale abbastanza intensa. Quindi chiunque ami il teatro in primis non può secondo me mancare questo film. Chi ama la letteratura, ma anche chi amasse la grande madre Russia, al di là delle vicende attuali, no? Comunque questo grandissimo paese che ha dato tanto alla letteratura, penso che sia un film imperdibile, ma soprattutto è rivolto a chi ama il teatro, perché Chekhov è l'uomo che ha rivoltato come un guanto il teatro moderno esiste grazie a lui. Quali sono i pregi principali di questo lavoro? Questo lavoro, come è stato anche definito domenica sulla lettura, sull'Osservatore della Sera, c'è stata già una prima recensione, è un film a tutti gli effetti classico, cioè è un film in costume della seconda metà dell'Ottocento, quindi il maggior pregio è quello di riportare il cinema ad una sua classicità, che racconta grandi storie, perché ci sono grandissimi personaggi in questo film, da Stanislavski a Tolstoi, fino ai piccoli contadini della Russia che vengono curati da Chekhov. Il pregio è quello di essere un film che va diretto al cuore e alla mente grazie all'effetto speciale più grande, secondo me, che è quello dell'autenticità dell'arte, È un film francese che è disponibile volendo in determinati cinema anche in versione originale sottotitolata in italiano. A Roma sarà in sala al cinema Farnese come inizio e poi in altre città, per avere poi l'elenco completo delle sale e degli orari, naturalmente c'è il sito wantedcinema.eu, dove tra l'altro è anche possibile scaricare un voucher promozionale per un piccolo sconto alla cassa in occasione del 29 di gennaio, che è la nascita, il compleanno di Anton Chekhov. Di René Ferré cos'altro sappiamo? René Ferré purtroppo ci ha lasciato nel 2015, infatti questo film esce dopo 8 anni e mezzo della sua creazione. È un cineasta e un attore teatrale, lui insegnava anche cinema all'Università di Lille, è un attore e regista di tipo artigianale, nel senso che lui ha sempre lavorato con la sua famiglia. In ogni film ci sono 2 o 3 sue figlie che recitano, altri personaggi della famiglia che sono dietro le quinte, all'editing, ai costumi. È ancora un cineasta vecchio stampo che lavora in maniera artigianale. È uscito con un film su Giovanna d'Arco. Noi lo abbiamo conosciuto perché Wanted Cinema aveva distribuito anni fa un suo film che si chiamava Nannerl, la sorella di Mozart, un bellissimo film che raccontava questo personaggio trascurato dalla storia che è appunto la sorella di Mozart. Anche questo è un film in costume molto bello. Noi appunto distribuendo questo film abbiamo anche avuto modo di conoscere anche film su Chekhov. Ferré arriva anche da un'esperienza in ospedale psichiatrico in Francia, quindi è interessante vedere come la quiete e la classicità che traspare dai suoi film in realtà siano frutto di un percorso in uscita anche da un disagio mentale. Quindi è un cinema classico ma luminoso, profondo, perché arriva da un tunnel. Quest'uomo è uscito dal tunnel della follia, il cinema, l'arte lo ha curato e quindi lui ha bisogno di raccontare, come in questo film, e questo è anche l'augurio che poi rivolgo un po' a tutti gli spettatori, di trovare nell'arte, nella letteratura, nel teatro il maggiore conforto dei mali o delle difficoltà del vivere. Ecco, questo film sostanzialmente poi dice questo, che quando si riesce veramente a cogliere il valore dell'arte, in qualche modo si può sempre guarire e non si è mai soli, in sostanza. Ecco, questo è un po' il messaggio del film. Abbiamo scoperto che in Italia non era mai uscito questo suo film, il primo e unico film biografico su questo grandissimo scrittore, e quindi abbiamo contattato la produzione, abbiamo visto il film e abbiamo deciso di portarlo in Italia perché il teatro italiano ne aveva bisogno, e non solo il teatro, ecco. Il film Anton Chekhov di René Ferré al cinema da giovedì 26 gennaio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Fantini di Wanted Cinema che lo distribuisce. A presto! Grazie, a presto. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Ti saluto, grazie. Con Andrea Segre, co-regista del documentario Trieste è bella di notte, in tour da lunedì 23 gennaio 2023. Ben trovato. Ciao a tutti, ben trovati voi. Raccontiamo questo lavoro. Quasi 2 anni fa ci hanno chiamato degli amici che lavorano a Trieste, progetto di migranti che arrivano dalla rotta balcanica, e ci hanno detto: guardate che alla frontiera stanno succedendo cose che perché era il periodo della pandemia, c'erano dei altri pensieri, e anche io non sapevo assolutamente nulla di cosa stesse succedendo, ed erano queste operazioni che il governo definiva di riammissione informale. Già era una definizione strana: riammessi dove, informalmente, come fa un governo informalmente a. E così siamo andati lì a Trieste e abbiamo iniziato ad ascoltare le storie di queste persone che avevano subito le riammissioni. Sono essenzialmente dei respingimenti che però il governo fa informalmente, cioè in maniera molto rapida, senza alcuna registrazione, e a subirle sono appunto ragazzi pakistani, afghani, iracheni, iraniani, che arrivano dopo anni di viaggio al confine tra Italia e Slovenia e vengono riaccompagnati in Slovenia senza alcuna procedura legale. Gli sloveni fanno altrettanto in Croazia e i croati poi li mollano nei boschi della Bosnia, da dove incomincia l'avventura. E questa storia io appunto adesso la racconto, ma l'ho scoperta ascoltandola da una decina di protagonisti, appunto pakistani, afghani per la maggioranza, ma anche bengalesi, iraniani, che ci hanno raccontato questa storia che abbiamo raccolto e montato insieme alle immagini realizzate e montate dagli stessi migranti, perché abbiamo usato delle storie TikTok fatte dai migranti durante i viaggi per raccontare i loro punti di vista e le loro avventure e disavventure, usando anche le loro musiche. Ci sono delle musiche molto strane, belle, pakistane, afghane dentro il film, ma non immaginatevi cose orientali, esotiche, musica techno dance pakistana. Come avete proceduto per il lavoro? Come l'avete strutturato? Abbiamo per alcuni mesi raccolto testimonianze di chi voleva raccontare, e poi abbiamo deciso di andare anche noi dall'altra parte del confine. Siamo andati in Bosnia, dove abbiamo incontrato persone che erano ancora nel cuore del viaggio, e quindi il film è montato in parallelo tra chi ha vissuto e racconta e chi sta vivendo. E poi appunto queste immagini di cui dicevo prima. Quando ci siamo resi conto che la tensione al centro di questa storia era anche una tensione interna allo Stato, cioè c'è un giudice del Tribunale Ordinario di Roma che ha dichiarato illegali queste operazioni di respingimento, e c'è un ministero, il Ministero degli Interni, sia prima che oggi, che invece ritiene che queste operazioni siano legittime e vuole continuare a farle. Erano state sospese dopo quella sentenza e poi invece sono continuate. Così abbiamo anche intervistato la giudice e il prefetto del ministero, che hanno risposto più che alle nostre domande alle storie raccontate dai protagonisti di questo film, e che abbiamo poi chiuso negli ultimi mesi e che verrà presentato in anteprima al Trieste Film Festival il 22 gennaio al Teatro Miela, e poi dal 23 sarà in tour in una quarantina di sale in giro per l'Italia. Si trova tutto sul sito di Zalab, che ha prodotto insieme a Vulcano e con il sostegno di Open Society Foundation e di Banca Etica il film. Zalab.org, si trovano tutte le indicazioni per le sale. Chi non riesce a trovare una sala dove vederlo, c'è anche un'anteprima online 24 ore e si può vedere Trieste Bella di Notte su ZalabView.org, che è la piattaforma di Zalab, da domenica 22 gennaio alle 18 a lunedì 23 gennaio alle 24. Una piccola anteprima online prima dello sfruttamento sala, si diceva una volta, cioè prima dell'uscita in sala, con rispetto ovviamente poi della esclusiva alla sala. Che esperienza è stata per te? Io sono tanti anni che incrocio e racconto queste storie, ho iniziato quasi 20 anni fa, nel 2006 feci il primo viaggio in mezzo al deserto del Tenere, in Niger, in Africa, dove incontrai i primi respinti delle prime politiche di esternalizzazione dei confini, si dice, insomma, cioè per proteggere lo spazio europeo si lavora verso i confini esterni e si operano operazioni di respingimento. Ed era appunto da allora che incrocio queste storie, però non avevo mai lavorato sul fronte orientale, sulla rotta balcanica, e soprattutto non avevo mai incontrato una storia dove c'è una forte ipocrisia di base da parte dello Stato, che fa finta di fare delle operazioni, le rivendica, poi non le rivendica, poi scopre che in realtà sono illegittime, allora continua a cercare di farle un po' di nascosto, poi le sospende, poi le riprende. Insomma, racconta questa storia anche la forte tensione interna al nostro corpo sociale e politico, ma non soltanto l'ascolto di storie raccontate in prima persona da parte di chi fa questi viaggi, ma anche una riflessione su cosa succede all'interno della nostra ordinamento istituzionale, dove dover ledere i diritti di altre persone a qualcuno interessa, a qualcuno interessa. Il documentario Trieste Bella di Notte, in tour da lunedì 23 gennaio 2023. Un saluto e un ringraziamento al coregista Andrea Segre. A presto! Grazie, ciao, a presto. Con Alessandro Garilli, regista del film La Seconda Via, al cinema da giovedì 26 gennaio 2023, distribuito da RS Productions. Ben trovato. Ben trovato a te. Cos'è questo lavoro? Questo è un lavoro che mi sento di dire che ha un grosso valore storico, culturale, aggiungo anche sociale, perché il primo film si parla degli alpini all'interno della ritirata di Russia del 1943. Detto così potrebbe sembrare prima acchito subito il classico film di guerra, in realtà La Seconda Via è un war movie, ma è un war movie sui generi, come amo dire io. È un film di guerra, io amo dire che è un film di uomini nella guerra, perché ha un'impronta molto onirica, intimista, quindi insomma è un film di guerra molto particolare. Io chiaramente ho letto tanto, perché c'è una grande punta sulla ritirata di Russia, anche qui era molto strano perché non si era invece qui che stava assistito degli alpini. E ho letto tanto, ho avuto la fortuna di conoscere dei reduci, di diventare amico di noti reduci, e poi sono stato personalmente anche più volte nel Voronezh, che è questa zona tra il Mezzogiorno e l'Ucraina, dove appunto è venuta la ritirata, zona che purtroppo oggi è tornata a parlare di guerra. E quello che mi aveva colpito sicuramente nelle letture, nelle parole, era il da cammino all'interno di deserti di niente, ma c'era un altro particolare che catturava la mia attenzione, e che era questa perdita della percezione del tempo. Sia negli scritti, ad esempio nella ritratta di Russia degli Stuporradi, a un certo punto lui scrive: ormai siamo usciti dal tempo, lo mette la sacca, lo mette perché erano circondati, il tempo non esiste, è stato il buio e la luce. E Mario Regone Cisterno nel suo libro investe il presente della neve, che molti conosceranno, a un certo punto c'è una cosa meravigliosa, dice: c'era la guerra, c'è la guerra futura dove ero io, ma io non vedevo la guerra, vedevo cose che sognavo e che ricordavo e che erano più vere della guerra. Era questa sorta di dimensione di sogno, ma senza scontare questo, poi sono diventati grandi autori nostri nel Novecento, ma anche il soldato semplice, magari, in una lettera scrive sulla notte, camminato così tanto, era sembrato di diventare quello. Quando si cammina all'interno di uno spazio che si trova a se stesso come appunto un deserto, succede che col passare dei giorni questo spazio del fisico diventa uno spazio mentale, perché l'uomo si rinchiude all'interno della propria testa per sopravvivere. E quindi tra questo passaggio, a me piace dire, da fisico a metafisico, che mi intrigava tantissimo, e quindi quando ho iniziato a scrivere il film mi sono detta che mi piacerebbe molto portare il futuro pubblico in questa zona privata, no? In questa zona segreta, dove questi ragazzi, fondamentalmente erano ragazzi che avevano 18, 25 anni, no? Per la maggior parte, si sono rifugiati per sopravvivere. E da qui il titolo del film, perché da una parte c'era la prima via, quella dei passi veri in mezzo alla neve, e dall'altra parte c'era la via mentale, la sponda del secolo. Ragazzi, appunto, per tornare, come dicono gli alpini, a Paita. Il film infatti parla di questi sei alpini che attraversano la steppa durante una lunga notte, e in questa lunga notte c'è la dimensione onirica che entra all'interno della realtà, con volta rientro, il piano del rientro, i confini iniziano a circolare tra di loro, e anche lo spettatore inizia a perdere la normale percezione. Questo è il concept che mi ha guidato, ma tutto chiaramente che sono più come era nato il progetto? Da un'urgenza umana. Io ho avuto la fortuna, come dicevo prima, di diventare amico di diversi redditi, e sicuramente un amico caro era Nelson Cenci. Nelson Cenci è il famoso tenente Cenci del libro di Mario Regone Cisterno, e devo dire che Nelson mi diceva che noi avevamo l'obbligo di attivare le lacrime di tutte quelle madri che non hanno visto tornare in Italia. Le madri sono 100.000, perché sono 100.000 quindi che non sono tornati dalla ritirata di Russia. E la seconda via sicuramente è, come dico, un fazzoletto troppo piccolo per contenere tutte quelle lacrime, però era importante iniziare a passare almeno una carezza a tutti voi, che io sono molto più di avere a più prezzo. Com'è stata la lavorazione? Non è stata semplice, sia perché sono partiti in inverno, abbiamo ricreato la steppa russa andando in piana Bruttesi in quota tra i 1.600 e i 1.000 metri, e quindi quando fai questi in inverno chiaramente ci sono grosse difficoltà tecniche, che però ti hanno anche permesso di fare immagini importanti, direi potenti all'interno del film. In tutto abbiamo tirato questa bucera di neve con raffiche da 80 km orari, e io penso che neanche con 500 ventilatori e tutti gli effetti speciali di questo mondo hanno potuto creare quel tipo di immagini. Quindi insomma, diciamo, è stato complesso da un punto di vista tecnico, soprattutto la parte riguardante la montagna. È stato impegnativo anche ricreare, ad esempio, un villaggio come abbiamo fatto all'interno di un ex lago di zolfo che ci serviva perché ci aveva questa superficie bianca che ci aiutava, diciamo, e è fatto tante parti, siamo tentati di parte della Catara a Mantiano, la di Pertano. Però è stato impegnativo anche da un punto di vista emotivo, perché mentre perché ho lottato tanto per fare, perché realizzare un film di sempre, che era tutto il mio percorso, ma anche perché noi abbiamo iniziato le riprese il 24 di gennaio dell'anno scorso, e dopo esattamente un mese, il 24 di febbraio, c'è stata l'invasione dell'Ucraina da parte dei russi, e questo personalmente mi ha toccato, nel senso che Io prima di scrivere il film, come ho detto prima, ho letto tanto. Per un anno ho letto solo di ritratto di Russia. Leggere di ritratto di Russia significa leggere principalmente di sofferenza. E quindi tutto questo chiaramente ti cambia, ti fa riflettere tantissimo. Vedere come l'uomo continua a incappare negli stessi errori reiteratamente, insomma, dolora molto. E quindi quando è successo questo, quando ho visto di nuovo quei giratori macchiarsi di sangue dopo 80 anni, per me non è stato significativo da un punto di vista emotivo. Che distribuzione sarà? La distribuzione è una distribuzione che avverrà grazie a RS Productions, che produce il film, ma si distribuisce pure. Il film, attualmente il film partirà in TV di Santa Sale in Italia e speriamo venga accolto in ancora più sale. È una distribuzione che cerca di coprire un po' tutto il territorio italiano e adesso aspettiamo di vedere intanto i primi risultati. È sempre molto importante che ci sia una risposta del pubblico in sala per qualsiasi film, la maggiore ragione per la seconda via, che vuole cercare di creare un ponte, diciamo, tra chi ha vissuto la ritirata di Russia e le nuove generazioni, le future generazioni. Per questo motivo il film comunque va anche tutta una discussione per le mattinere riguardante le scuole, perché crediamo sia fondamentale arrivare a comunicare questo pezzo del mondo. In questo punto io premo particolarmente, perché io per il mestiere che faccio mi sono trovato varie volte a parlare con gli studenti, quando parlavo con loro della ritirata russa praticamente non mi poteva dire niente, quasi nessuno, che annuiva, pensavo, perché parlava degli alpini, pensava la prima guerra mondiale, mentre invece quando magari parlo con loro e chiedo qualcosa sul Vietnam, mi fanno parlare, mi fanno dire delle cose, ma non perché l'hanno studiato, semplicemente perché hanno visto dei film, no? Stati Uniti, Metal Jacket, Apocalypse Now, e vi dicendo che ne sono tanti. E quindi oggi come oggi c'è uno spostamento dal campo della letteratura al campo delle immagini, soprattutto nella nostra società occidentale, e io dico che non possedere un'immagine è un po' come non possedere un ricordo. Quindi è un discorso molto delicato e penso che fosse importante iniziare ad arricchire l'immaginario iconografico dei ragazzi anche da questo punto di vista. Il film La Seconda Via al cinema da giovedì 26 gennaio 2023, distribuito da RS Productions. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Garilli. A presto! A presto, prestissimo, e grazie a tutti voi. Con Alessandro Comodin, regista del documentario Gigi La Legge, in tour da lunedì 23 gennaio 2023, ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno. Che storia hai raccontato? Ho raccontato la storia di Gigi, un vigile urbano della campagna friulana, che vive in un posto dove non succede granché. Gigi è un personaggio un po' particolare, perché gli piacciono gli alberi e difende tantissimo gli alberi, eppure in questo posto, insomma, dove tutto sembra abbastanza mediocre e ordinario, succedono delle cose drammatiche, come ovunque, e cioè una signora si è suicidata buttandosi sotto il treno all'altezza del passaggio a livello tra il campo sportivo e il cimitero. E così Gigi comincia una sorta di indagine un po' assurda, un po' personale, di nascosto, intorno a questo fatto completamente inspiegabile. E lo fa a modo suo. Questa è la storia del film, che non ha grandi rivelazioni se non quella di lasciarsi portare in un mondo sì ordinario, però allo stesso tempo straordinario, che è il mondo visto attraverso gli occhi di Gigi, un vigile urbano buono che ha una fantasia debordante, così quanto i suoi alberi e il suo giardino. Come ha avuto origine tutto? Da sempre, nel senso che Gigi è mio zio, è il fratello minore di mia madre, quindi lo conosco da sempre. Cioè, è sempre stato lo zio simpaticone, quello che mi portava in giro in Vespa, mi portava a pescare. Poi un giorno è diventato vigile urbano e poi ci siamo persi di vista perché sono andato in Francia dove abito. E un giorno ho voluto tornare un po' a casa per fare un film a casa, nel mio paese, da dove vengo, in Friuli. E mi sono detto, devo cominciare da me, dal mio giardino, dal giardino di mia nonna, dove ho passato tutte le estati, quindi tutto è cominciato nel giardino di mia nonna, che è diventato il giardino di Gigi. E dopodiché, visto che Gigi era un vigile urbano, per forza di cose il film è diventato una sorta di poliziesco. Il documentario mi sembra un po' riduttivo, come metterlo in una specie di ghetto. In realtà è un film che segue quest'uomo, che ne fa il ritratto, e per me è stata l'occasione per tornare a vivere dei momenti e delle sensazioni che avevo vissuto quando stavo lì, ed è stato molto bello. Come hai deciso di strutturarlo? Esattamente come un film finzione, nel senso che c'era una sceneggiatura con questo elemento scatenante che girava intorno ad un fatto veramente successo, che è veramente successo a Gigi, che è appunto il suicidio di una signora del paese. Bisogna dire che ci sono tanti suicidi in paese, come da tutte le parti, e la particolarità tetra di quel posto è che la gente si suicida sempre nello stesso posto, lì in quel passaggio a livello dannato vicino al cimitero. Io stesso ho perso un amico nel 2000, in quel posto lì esattamente. Quindi è capitato a Gigi ed è stato proprio l'elemento scatenante anche del film. E ho cercato di lavorare con quello che Gigi ha vissuto nella sua vita e con le varie azioni, le varie eventi o non eventi, se vogliamo, che gli capitano nel suo quotidiano, il quotidiano di un vigile di campagna. Quindi quella è stata la struttura, tutto parte da questo suicidio che passa attraverso una lunga indagine completamente assurda, ma che è anche la scusa per poter poi fare il ritratto di questo personaggio che è vero. E poi c'è una storia d'amore, che è una storia inventata, che è una storia d'amore che ho portato io, che è stata scritta, e che è con una fantomatica vigilessa stagionale che si occupa della radio, quindi è una storia radiofonica tra lui e questa vigilessa che non vede mai e che sogna, con cui parla mentre fa i suoi giri, le sue pattuglie. Che distribuzione hai pensato di mettere in atto? Per fortuna non sono da solo in questa avventura. Ovviamente il genere di film che faccio io in Italia purtroppo non esistono quasi più e sono dei film totalmente nascosti, che vivono in un mondo parallelo, oscuro, dei festival, che sono riconosciuti ovunque nel mondo, ma in Italia non hanno la possibilità, per ragioni storiche e culturali, di essere distribuiti in una maniera decente. Ciononostante, ho visto che siamo qua per fare le cose bene e per divertirci anche, abbiamo deciso, comunque forti di tutti i premi vinti nei festival, di far uscire il film al cinema, perché lì è il suo posto, perché la forma, l'estetica del film è proprio pensata per il cinema, il suono è molto importante, il fuoricampo è molto grande, l'immagine è molto bella, il ritmo è quello proprio del cinema, e quindi per una distribuzione italiana normale non era possibile portarlo al cinema, allora abbiamo pensato di portarlo al cinema noi, cioè la stessa casa di produzione Octafilm, quel produttore Paolo Benzi, ha deciso di fare un lavoro proprio meticoloso e artigianale con ogni sala, quindi c'è stato una specie di movimento così abbastanza piccolo, però allo stesso tempo molto entusiasmante, perché quindi le sale che hanno accettato di guardare il film e di sostenerlo hanno deciso di prendere il film. Io lo accompagnerò adesso in una specie di giro di tour per l'Italia nelle sale che sono amiche, insomma, quindi è un po' un mondo un po' ideale, no? Dove l'artigianato nostro della fabbricazione ritrova l'artigianato delle sale che hanno un loro pubblico, che hanno educato il loro pubblico a guardare dei film diversi, dei film d'autore, dei film in lingua originale, dei film che non sono per forza commerciali americani. E quindi è un momento molto molto eccitante per me questo. Al quale si aggiunge la candidatura ai David di Donatello. Sì, questa è una sorpresa, perché se quando presenti un film in un festival devi scrivere la tua biografia. E nella mia biografia ho scritto che ho fatto 3 film e che sono per il cinema, che non ho mai saputo dire se erano dei documentari o delle finzioni. Ovviamente l'industria dell'Accademia del Cinema Italiano ha deciso di mettere il mio film nella sezione documentario, credo non sapendo bene dove metterlo, perché in effetti le categorie non sono molto molto chiare, ecco. Io ne sono felice, perché il lato documentario è molto molto forte, infatti lo spettatore non sa mai se è documentario o se è finzione. È ovvio che il fatto di essere presi da questa selezione del Donatello ci dà l'occasione di dargli un po' più di visibilità al film, che è buono, perché insomma noi non abbiamo tanti soldi per poter fare la pubblicità, e allora questo magari può aiutarci, quindi sono molto contento. Il documentario Gigi la legge in tour da lunedì 23 gennaio 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Comodin. A presto! Ciao, a presto! Con Flavia Mastrella, regista del film La legge, in anteprima romana al Cinema Troisi, lunedì 30 gennaio 2023. Ben trovata. Ciao. Raccontaci questo progetto. È un lavoro che ho fatto durante il lockdown. Ho cercato di rappresentare un po' la rabbia che provavo e un po' la sensazione di essere calpestata nei diritti. Durante il lockdown ho letto moltissimo e ho cercato nella mia biblioteca parecchi libri del passato, del mio passato, e tra cui c'era anche questa edizione della Regione della Costituzione Italiana, era del 1972. E ho cominciato con Antonio, con qualche amico mio, qualche amico di Barbara Faonio, che ha fatto pure il montaggio del film, e gli ho chiesto di recitare gli articoli inquadrando gli animali, i loro animali, oppure un loro animale preferito, col telefonino. Quindi hanno lavorato tutti col telefono, che normalmente è un oggetto di tortura, invece in questo caso è stato trasformato in oggetto creativo. E così ho rappresentato ancora un'altra mia convinzione, cioè che tutto è buono per fare arte e chiunque dentro di sé ha la creatività. L'idea dell'abbinamento con gli animali com'è venuta? L'idea è venuta perché non sapevo come rappresentare la persona nella sua intimità e nel rapporto con la legge, quindi ho pensato agli animali proprio perché l'animale rappresenta la nostra parte più umana in questo momento storico e però rappresenta molto noi, perché ogni animale prende tanto del padrone, quindi gli animali sono la metafora dell'uomo. E la scelta degli animali è dovuta ai tuoi interlocutori e interlocutrici, hanno scelto loro? Loro hanno scelto gli animali. La cosa obbligatoria era avere un animale o un animale domestico oppure un animale addomesticato. Perciò anche pecore, mucche, animali dello zoo, cioè tutti quegli animali che hanno a che fare molto con l'essere umano. Com'è stato il lavoro sul film? Ognuno ha filmato col proprio cellulare e poi tu hai lavorato di montaggio? Sì, ho lavorato di montaggio e anche di colore, insomma sono molto lavorate queste immagini, ma è molto lavorato anche l'audio. Di fondo ci sono sempre delle registrazioni col cellulare di situazioni dove c'è molta gente, che ne so, una messa oppure il traffico della strada, poi c'è il rumore della stazione, poi c'è il rumore di corsi d'acqua. E in tutto il film ci sono 3500 file audio manipolati e compressati, cioè non c'è un attimo di silenzio. Il montaggio sonoro l'ha fatto sempre Barbara e poi il mix me l'ha fatto Stefano Falcone, che è un altro eroe del lavoro perché è un lavoro veramente fatto con mezzi impropri, quindi molto faticoso. Hai seguito tutti gli articoli come sono nella Costituzione o hai proceduto anche a balzi? Ho fatto proprio una lettura precisa, integrale, come la faresti tu. Articolo dopo articolo, inizio dall'articolo 1 e finisco all'articolo 136, poi dopo ci sono le disposizioni transitorie e finali e invece degli animali sono riprese delle persone e le riprendo io personalmente e le faccio rotolare dentro delle lenzuola oppure dentro fogli di plastica. E durante questo rotolamento un'altra persona recita appunto gli articoli di queste disposizioni transitorie e finali che parlano dell'abbandono della monarchia, dell'abbandono del regime fascista,